sto calmo, ma io sto calmo, io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, te. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che novità ci sono della signora Barbuto, Azzurra Barbuto ad esempio? Io sono una strozza però con dei principi. L'ottima Barbuto. Imbecilla, sono imbecille. Se vuole vaccinarsi, sto coglione, si vaccina, ma non rompe il cazzo! Non si vuole vaccinare. Come te, sì, purtroppo. Interessante questo. Sì, oggi non si vuole vaccinare. Ma io posso dire solo per... Evviva! Cruciani, ma io non ho capito niente, sento solo che sbava tantissimo, me lo immagino lì con la bava bianca che si gonfia, schiuma ai lati della bocca. Mauro, questa tazza di lardo seduta nella sua camera da letto, mi sembra veramente terribile. Merda, guarda Parenzo proprio, guarda, è come un lagotto per il tartufo. Annusa i trans lontano un chilometro, quel Francesco da Firenze sicuro è un trans. Me lo vedo già, dai, con la parrucca bionda, quel Francesco da Firenze. Solo Parenzo lì con quel coglione, pezzo di merda. Guarda il monitor. Io ho vissuto con grande empatia il momento in cui Apparenza è scappata dalla prigione e ha detto che chi va a trans era ecco malato, sì, giusto? Sì, no? Sì, sì, sì. E ho capito che poi al fondo di ognuno di noi questa verità emerge. Insomma. Chi va a trans? Io lo considero un malato chi va a trans, sicuramente. Ti sei fatto dare ragione da Dinolfi. E ti ha dato ragione, io la penso esattamente come te sui trans, ma tu adesso devi nascondere la faccia sotto un sasso e non ti devi far più vedere né sentire. Allora, viste e sentite le ultime novità, se foste interessati a interagire con la zanzara, dovete sapere che parlerete con uno pusillanime leccaculo scendiletto con l'uccello palmato di nome Parenzo. 2. Figurino modello slim di 100 kg, fancazzista, nipote di un ex sindaco democristiano nonché raccomandato del cazzo a nome di Gottardo. E 3. L'imperatore, ovvero la puttanella, gobbo di merda, amico dei napoletani, il mitico Crucianone. Quindi, questo è quanto. Altrimenti, non chiamate e andate a farvi fottere in culo. Mi pare evidente, evidente. E io devo dire anche per questo, devo dire bravo a Cruciani e bravo a Parenzo che già stanno attaccando i vaccini. No, la zanzara. Fatemelo dire, uno, li ho sempre attaccati, gli hanno detto, mi sono sempre scontrato. Devo dire che sono bravi. Stanno facendo una battaglia di dire vogliamo chiarezza sui vaccini. No, io ho detto finalmente. Che... Bravo, che no, continuate così. Io ho querelato per molto meno, ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Oh. Signor Pappalardo dice che stiamo facendo una battaglia sui vaccini. No, tu stai ingannando la gente, ma per carità, attenzione, è il punto del commissario Arcuri sulle misure di contrasto all'epidemia. In diretta da Roma, David Parenzo! Buonasera. Volentieri la parola al dottor Arcuri che in questo momento sta dettagliando il paese sulle misure di contrasto all'epidemia. Allora, tutti voi vi concentrate, compreso Parenzo, su 993 morti, il dato di oggi. È un dato che non dovete vedere. Ridi, bravo. Che dovete cancellare. Su quelle persone che hanno perso le persone. No, non è aspregio. Tutti quanti vi dicono, oddio, 993 morti. Siete dei falsari. Siete tu un libro. In primis anche un libro. Grande. Ma in primis sei il primo dei falsari. No, sei il primo dei falsari. Disse quei morti, quello che dà la parola non ai negazionisti. Non si sa da dove vengono. Non si sa da dove vengono. Di che cosa esattamente sono morti. Che tale, questo lo dice anche Cacciari, quello che tu ami tanto. Non si sa bene esattamente di cosa siano morti, quando risalgono questi morti. Insomma, ragazzi, la situazione è molto semplice. Il dato fondamentale è che esce, è l'ottavo giorno consecutivo che ci sono meno persone in terapia intensiva e meno ricoverati. Questo è il dato fondamentale che bisogna vedere, non le cose da uccello del malaugurio maledetto che sei. Questo nessuno è il punto fondamentale. Irresponsabile. Poi non avevano detto che con le chiusure di inizio novembre avremmo salvato Natale? Cioè siamo ripiombati in una specie di clausura. Dal 21 al 6 chiudono tutto, non ti puoi muovere da casa dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lasciamo perdere la follia degli spostamenti tra i comuni che non si possono fare. Dunque, se c'è un vecchio da solo, i figli non possono andare a trovarlo nel paese vicino. Vai radiato dall'ordine, bugia. Bugia assoluta, hai detto. Fake news. Ma quale fake news? La realtà. Se un genitore è da solo può essere raggiunto sicuramente. Stai dicendo balle. Sgarbi, fatevi sentire Sgarbi, che è l'unico che mi consola, va. Sgarbi. Balle. Sgarbi. Ma cosa vogliono insegnarci questi incapaci? Come vogliono dirci che lì c'è un rischio? Dov'è il rischio? Nel loro cervello. E così vale per le località sciistiche del Trentino, del nord Italia, le quali sono chiuse mentre è aperta la Carinzia, tutta l'Austria, la Svizzera. Ma che siamo tutti i coglioni noi? E se non hanno comprato ancora le siringhe per il vaccino, prova che gli dai i soldi perché non li spendano o diano 72 milioni di mediazione ai venditori cinesi di mascherine. Gli italiani, li avete visti? Le mascherine, un affare formidabile poteva essere per Farinetti. Vendiamo 700 miliardi di mascherine e diamo 72 milioni a un mediatore che lavorava nelle ferrovie. Che roba è? Non pago una lira a questi idioti. Consiglio di pagare le tasse a chiunque. Le date a degli incapaci che li buttano nel cesso. Questo è il problema. Non sanno come spenderli. Allora, Farinetti obbligherebbe i novax, complottisti e terrapiattisti a vaccinarsi per primi. Bravissimo. Signor Farinetti, puttanata del giorno tra me. È una provocazione giusta. Una puttanata inaudita. Una grande provocazione, c'è perfettamente ragione. Io vaccinerei prima di tutto i novax. Li obbligherei a vaccinarsi in qualche maniera e proprio li obbligherei, loro e tutti i complottisti, quelli della terra piatta, che siamo mai andati sulla luna, eccetera, quelli da vaccinare prima di tutto. Comunque, a me la cosa che mi fa incazzare è questa cosa qui. Ci hanno detto all'inizio di novembre, ci hanno detto, beh, facciamo questi provvedimenti adesso, così almeno Natale, no? Siamo tranquilli a Natale. Chi blindatura totale, 21 dicembre, 6 gennaio, blindati. Per evitare quello che è accaduto quest'estate, per evitare, ma non si può andare avanti così, siamo già in un'altra fase in cui sta arrivando il vaccino in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Europa, grazie all'EMA, con qualche controllo in più per la nostra sicurezza. E gli altri sono stronzi, invece gli inglesi che partono prima sono stronzi. Tu che sei quello che non vuoi farti il vaccino, ora che ci sono controlli in più, critichi, sai solo criticare. Senti, vai in Inghilterra a farti il vaccino. Nessuno oggi fa ragionare sul fatto che noi saremo chiusi a Natale, non potremo andare a messa per chi crede a Natale, non potremo fare il cenone a Natale, ci dicono quante persone dobbiamo avere a casa a Natale, ci spiegano che se vanno all'estero poi dobbiamo tornare in Italia e non dobbiamo fare il tampone se torniamo in Italia, dobbiamo fare la quarantena perché è punitivo, se sei andato all'estero sei uno un delinquente, se sei andato all'estero sei un delinquente, quindi stai 15 giorni chiusi a casa. Noi stiamo appaltando come se nulla fosse la nostra libertà a Conte, Casalino e Speranza, e sapete perché? Perché se no moriamo tutti, perché questo è il principio, cioè abbiamo talmente tutti paura che la mia posizione è chiaramente minoritaria. Vuoi andare a sciare? Ma figurati, vuoi andare a trovare la fidanzata? Ma trombi fra un anno, ma che ti frega? Toc toc! Non avevate detto che dovevamo chiudere e avere il coprifuoco perché potevamo essere liberi a Natale? Giusto. No, me lo dovete spiegare. Vedi. Perché voi avevate detto adesso facciamo un po' di sacrificio così siamo liberi a Natale. Ma liberi da che? Non possiamo andare in vacanza, non possiamo andare al ristorante, non possiamo fare il cenone, non possiamo andare a scuola, non possiamo lavorare. Ma liberi da che? Cioè, ma perché nessuno dice al governo che eravamo il modello italiano e siamo il paese in cui ci sono più morti nella seconda ondata del mondo? Del mondo! Perché non diciamo a questi cazzoni che non c'entra nulla le discoteche di agosto? Non c'entra nulla! Continuiamo ad avere morti a novembre semplicemente perché loro non hanno organizzato la sanità, non hanno organizzato i trasporti, non hanno organizzato la scuola, se non e i quindi? Banchi a rotelle, zitti e muti! Siete dei pecoroni! pecoroni, questo siete, e dite come ti permetti a parlare dello sci, io parlo dello sci, io parlo delle funivie, io parlo delle discoteche, io voglio stappare una boccia di Ferrari, di Don Perignon, voglio fare quello che cavolo mi pare a Capodanno, chiaro, in un paese normale non esistono dei pecoroni come siamo noi, zitti, muti, schiavi di Casalino, di Speranza e di Conte, e della nostra gigantesca paura che stiamo per morire, sì, moriremo tutti. Applausi, applausi a Porro, alla grandissima, una follia, alla grandissima, applausi, applausi, un'assoluta applausi. Follia. Siete prigionieri della paura. Come anch'io, se Marzo, rinunciare a un Natale siete fosse meno importante della paura. Che mandare i figli a scuola. Guarda il tasso di mortalità, sei prigioniero come della se, paura. Senti, per me la priorità è rimandare i figli ma a scuola, tutti a scuola, la scuola è la priorità. No, il Natale, lo champagne, lo sci, la scuola deve essere la priorità. Il 7 gennaio devono andare tutti quanti a scuola, questa è la priorità, altro che fare un gruppo. E comunque quello che dice la Martani di utilizzare il fucile mentre si va a caccia è come dire, beh, è troppo facile vivere in una casa moderna, troppo facile muoversi con la macchina, torniamo a vivere in caverna e andare sempre a piedi. La Zanzara. I'm a vampire. How'd you find her? Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Per esempio sul caso Maradona, tutti a osannare Maradona, viva viva, grande campione, per carità di Dio, un campione come Maradona non è che si incontra facilmente, mamma mia. Però non possiamo dimenticare che ha avuto delle traversie, consumatore accanito di cocaina, ci mancava lui. Aveva anche relazione abbastanza strana con un certo tipo di delinquenza, la camorra a Napoli. Mamma mia, ci mancava questo. Ci mancava questo. Ti segnalo, caro David, che in Namibia, in una elezione locale, ha vinto Adolf Hitler. Un signore che si chiama Adolf Hitler. Dove questo? In Namibia, ex colonia tedesca peraltro. Non penso che sia un paese dove promette, non cercherò mai piedi. Non cercherò di dominare il mondo. Beh, non credo. Cercherò e di dominare. Non petita, accusatio manifesta, dicevano i latini. Dici, da però piccolo mi pareva un nome totalmente normale. Solo da teenager ho capito cosa significasse. Padre, insomma, il padre. Allora, Adolf Hitler Unona si chiama questo qua. Adolf Hitler Unona vince le elezioni in Namibia. Ma perché si chiamava Adolf Hitler? Ma che cazzo lo so, il padre l'ha chiamato Adolf Hitler perché sarà stato un ammiratore, del baffetto. Qualche dai, problemino sul padre. Ma sì, sarà qualche stato, domandina me la posso sarà fare. Sarà stato un ammiratore del baffetto, ma che ci sarà di strano, dai, su. Come che comunque gli altri sì, che ci sarà di strano, nel senso in Namibia, ex colonia tedesca, in Africa qualche coglione c'è, come c'è in Italia, è qualche ammiratore del baffetto, dai. Tutto normale. Ma no, ma ci sta, dai, ci sono ammiratori di Stalin, ammiratore del baffetto, ammiratore di Parenzo, c'è gente per esempio come a essere ammiratori di Parenzo, di Stalin, di Primke o di qualcun altro, è diverso. Tutto uguale. Per esempio, tutto c'è in Italia un signore vicino a Teramo, anzi a Teramo, che si chiama Petrella, che è un antivaccinista, un medico, è un medico, pare radiato, non so poi se i procedimenti di radiazione in Italia non sono così proprio scontati, iniziano, non si sa quando finiscono, uno fa ricorso, eccetera, eccetera. Tale Petrella. Senti, è meraviglioso, antivaccinista, eccetera, eccetera, dice che il Covid è una farsa. Voglio, carissimi, chi mi ascolta, sì? Dirvi cosa? I nomi di ciò che contengono i vaccini. Idrossido d'alluminio, fosfato d'alluminio, poi? Solfato d'ammonio. Poi? Amfotericina B. Poi? Tessuti d'origine animale. Sangue di maiale. Sangue di cavallo. Ma questo cervello di coniglio. Sì. Arginina cloridrato. Rene di cane. Rene di scimmia. Fosfato di potassio di basico. embrione di pollo, embrione di uovo pollo. Di pollo, è difficile, uova d'anatra, buono, uova siero buono, fetale buono. Bovino, ah. Beta proprio lattone, formaldeide, cancerogeno, lo sanno tutti. Sanno tutti. Gelatina. La gelatina che potete dire. Gelatina buona, gelatina. Ma vogliamo sentire per favore la lista, mi fate sentire questa lista perché è interessante. No. Cosa contengono, secondo Petrella, i vaccini? Perché Petrella. È interessante questa cosa del maiale, della calla scimmia. Sentiamo ancora? Voglio, carissimi, chi mi ascolta, dirvi i nomi di ciò che è vero, contengono i vaccini. Il rene di carne, idrossido d'alluminio, poi? Fosfato d'alluminio, poi? Solfato d'ammonio, anfotericina B, tessuti d'origine animale, sangue di maiale, sangue di cavallo, cervello di coniglio, arginina cloridrato, rene di cane, rene di scimmia, fosfato di potassio di basico, embrione di pollo, uovo di pollo, uova d'anatra, siero fetale bovino, siero fetale bovino, questo è tremendo, proprio lattone, un menù completo, scrive professor Viale, Silvio Viale, lo sanno tutti, gelatina. Il resto lo sentiamo dopo, no? Anzi, il grande Viale di Radicali scrive un menù completo, giustamente. Questo Petrella aggiunge anche cellule di tessuto umano abortito. Questo è straordinario. Spostato. Possiamo dire che è uno spostato? Di tessuto, no. Perché convieni con me che è uno spostato? Sì. No, senti questa. Lui arriva a dire abbastanza. Convieni con me che è uno spostato totale? Senti sta cosa, Cellule diploidi umane provenienti da tessuto fetale umano abortito, professori che andate in televisione, ministro, vice ministro del movimento sociale dei 5 Stelle, ma si vada un po' a studiare queste situazioni. Come si permette di dare delle notizie in televisione? Ma lei è un medico? C'è anche l'antigelo, etanolo, antigelo. L'antigelo. Ecco perché adesso sti cambi almeno 70 gradi vanno in giro. Ma che c'entra l'antigelo? Perché devono stare almeno 70 gradi i vaccini. Ma vi rendete conto, italiani? Ma volete reagire? Volete reagire, David? Volete reagire? C'è anche l'antigelo dentro i vaccini. C'è anche l'antigelo. Senti, vi mando entrambi a fare il culo alle 18.54. Vuoi che aspetti un'altra ora per... Senti, leggo dal quotidiano Libero. No, ho paura, non puoi ho paura del maligno e il nigeriano ottiene asilo. Questo potrebbe essere vero, però. Un nigeriano ha ottenuto asilo perché ha paura del maligno, perché c'è la stregoneria in Nigeria. Chi lo questo scrive è questo? Il quotidiano Libero. Permetti che possa dubitare, ma non... Pietro da Milano. Pietro da Milano. Dubito solo di quel giornale che Pietro da ha delle firme illustri, Pietro tra cui da la signora Barbuto. Cruciani? Dimmi Pietro. Firme illustri Cruciani, senza ironia, allora, eh. Io mi diverto tantissimo a sentirvi da tanto io tempo quando torno io non a casa. Più. Io no, da 10 anni no. Io no. Lasciami sì, dire. Scusa. Vai, Pietro, allora, è un'iperbole, è una dissacrazione, è un'esagerazione, ma quando parli dei Covid, quando parli delle persone che soffrono per il Covid, io non parlo e stanno ancora soffrendo, ma vergogna. Ma io non sto parlando di persone che soffrono del Covid, non ho parlato male di nessuno, ho parlato male te di persone che soffrono per te ne frega. Posso dire che la mortalità è bassa? Non ho detto che non è un problema, ho detto che la mortalità è bassa. È vero o no che dire? È bassa la mortalità? No. A parte in Italia. Ma cosa vuol dire? No. Ma se un ospedale da 600 letti è pieno da 500. Non c'è nessun ospedale oggi in affanno. Non c'è nessuno ospedale in affanno oggi. Nessuno! Fermi ma tutto. Porca miseria, ho fatto mezz'ora fa un ospedale pieno di pazienti Covid! Ma chi? Ma dov'è l'ospedale pieno? Ma pieno è una cosa, in affanno è un'altra. Un ospedale grosso! Di 600 letti! Non c'è l'emergenza ospedale oggi! Non c'è emergenza ospedale oggi! Non c'è una vergogna che rincoglionito! Fermala, richiamalo! La zanzara. Well, I listen to the radio and it's buzzing in my head. Why più. Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Luciani, sei davvero una merda. Adesso, ripensandoci bene, la storia di Maradona: hai tirato dentro Parenzo e sei riuscito a fargli fare la figura da coniglio a Parenzo, quando il vero coniglio sei tu. Perché tutta la stronzata l'hai tirata in pista tu, ed è solo colpa tua se ti insultano, perché sei tu che hai creato tutta la sceneggiata. E ti sei tirato dentro il buon Parenzo. E il buon Parenzo, povero Cristo, ha dovuto chiedere scusa per una cosa che non ha fatto. Tu non hai chiesto scusa, hai fatto la figura da figo, ma in realtà ti stavi cagando addosso e ti stai ancora cagando addosso. Che cinema che sei, Cruciani. Parenzo, vaffanculo, ti e il tuo divieto di Natale, che ti capio, perché ti te stai a casa tua in mezzo ai tuoi parenti, là nella tua bambagia, e che gente invece che abita da sola, che deve andare a trovare i genitori, che abita in un comune a 5 km di distanza. Hai capito? Il rincoglionito di un deficiente che non ti sia altro. Vaffanculo Parenzo, vaffanculo. Almeno per una volta sii coerente e sta da parte della gente deficiente. Mi sembrerà strano, ma oggi devo fare gli elogi a Cruciani e a Parenzo. No, Pappalardo, no, ti prego, Pappalardo. Certe trasmissioni radiofoniche con Cruciani e Parenzo, la Zanzara, lo hanno preso a parolacce, gliene hanno detto tutti i colori, e stasera ne parla bene. Sì, ne parlo bene, perché da tempo per che carità dico a Cruciani e Parenzo: se la Zanzara, invece di pungere la povera gente, la gente che protesta perché soffre, sta male, punzecchiare Giuseppe Pino, non si fa. Non si punzecchia una persona che ha fatto il suo dovere per tanti anni con grande correttezza, con grande lealtà e fedeltà. Ma quando pungono i potenti, ecco, allora a questo punto Cruciani e Parenzo hanno le mie più vive, che posso dire, il mio più vivo apprezzamento. Bravi. Con chi eravamo? Non ho capito con chi eravamo. No, Moreno da Milano, no, non c'è più quello di prima. Moreno da Milano, vai, Moreno, vai. Oh, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io non ce la faccio più a sentire la minchiata che l'aumento dei contagi è colpa dell'estate. Sì, no, una puttanata. Questa è una puttanata che non ce la faccio più. Ma è quello, Parenzo, ma questo è Parenzo, che, ma sì, sono aumentati a settembre, ottobre, quello che è. Che vengono chiusi il 17 d'agosto. No, sì, fermo. Il 17 agosto hanno chiuso oltre le discoteche, dai, su. Oltre le discoteche c'è un problema. C'è un altro problema, che i nostri ragazzi non stanno andando a scuola. Ma quindi cosa la c'entra prima adesso? Priorità, ma sta dicendo un'altra dovrebbe cosa. Essere quella, ma di sta dicendo un'altra cosa anziché, ma i vostri sollazzi. Ma cosa c'entra? Ma questo è cretino, ma questo è cretino totale. I vostri sollazzi, ma questo il vostro è cretino totale. Sci, a tutti noi piace lo sci. Perché sbatti i coglioni della scuola? Io sì, me ne sbatti i coglioni. Didattica a distanza la trovo stupenda. Non funziona in alcun modo, purtroppo. Per i ragazzi anche più piccoli non funziona. Vabbè, Moreno, stava parlando di un'altra cosa. Moreno stava dicendo un'altra cosa che non c'entra nulla. Tu eri distratto come al solito. Sta dicendo tutti quelli che dicono, tutti quelli che dicono che paghiamo i danni così dell'estate. Non è così. Non è vero. La curva ha iniziato, ciao, a risalire, Moreno, ciao, dopo l'estate. Tu la curva, ciao, ce l'hai in testa, Parenzo. Ciao, bravo. Davide dalla Spezia, vai Davide, dimmi. Pronto, mi senti? Ti sento, dimmi. Bene, sì, benissimo, niente, aspetta un attimo, ho preso due birre, ciao. Sì, bravo. Dopo le 18, bravo. Ottimo. Ragazzi, mio, quando si può bisogna fottere i provvedimenti, io sono di questa idea. Messaggio. Cioè, quando grande si può bisogna fottere i provvedimenti, quando è possibile, quando è possibile, bisogna fottere i provvedimenti. Bel egoista sei, bel senso degli altri proprio. Ma che c'è tra senso degli altri? Dimostra ancora una volta di essere, di non aver nessun di fronte a questi, bravo, provvedimenti spesso illiberali, completamente illiberali, dimostri, che bloccano la circolazione, la libertà, vanno a dire ristoratori e baristi che sono sull'astrico, Franco, vallo a dire a quelli, ai ristoratori, ma lì non solo, a quelli per esempio che hanno i negozi dentro i centri commerciali, cui era stato promesse tante cose, adesso devono chiudere durante i weekend di dicembre dove incassavano di più. Vale a dire a quello, vai a fare questo discorso, la responsabilità difendo, a questi qua, vai a fare, non è, io penso, dai, che tu sia un grande responsabile, perché tu della gente te ne fotti, tuo stipendio ce l'hai, fai tutta, dimmi, questa, Davide, campagna, dimmi, per fare il cinema, e la gente, ma lo, niente, sa, niente, io volevo dire una cosa, freghi degli altri, che non può dire che chi va a trans è un malato di mente, perché c'è, no, non è un malato che... di mente, ho, sì, detto, è malato, detto un'altra cosa, è malato, hai detto, detto questo, secondo me, no, chiedo scusa, allora se qualcuno si è offeso, bisogna imparare a chiedere scusa. Con queste scuse ridicole, Davide, voglio capire una cosa, sì, tu vai a trans? Da questa terza figura sessuale, tu vai a trans, tu vai a trans, mi sembra di capire. No, trans non ci vado, vado a prostitute, ma trans non ci vado, miserabile, Non ho capito perché miserabile. Miserabile perché va a prostitute. Perché? Perché? Ho capito. Perché sfrutta le donne. Parenzo, cosa faccio? Sfrutta cosa le donne. Trovati una fidanzata. Ma non prova a corteggiare. Prova a corteggiare una donna in modo normale. Ma non ho capito. Ma se questo qua vuole andare a mignotte, potrà andare. Potrà andare a mignotte. Potrà andare a mignotte. Trovo il comportamento di chi ci va. Oppure volete impedire anche. Non ho impedito nulla. Non ho impedito nulla. Ho detto non ho impedito nulla, né lo voglio impedire, ovviamente. No, semplicemente che no, mai detto che voglio impedirlo. Mi hai dato del miserabile perché vado a mignotte. Ho dato un giudizio morale, certo. Giudizio morale. Dai, qualcuno avrà un giudizio morale su di me, io ho un giudizio morale sul comportamento di uno che va a prostitute. Davide, ti sei separato e da quel momento in poi preferisci sostanzialmente andare a mignotte o no? Preferisco andare a mignotte, preferisco pagare, non corteggiare, non andare a mangiare fuori, preferisco andare a mignotte. Quanto vai a mignotte più o meno? Sarà una volta alla settimana. Ma dove? Internet? Cioè una fissa? Sì, le prendo su internet, le prendo e poi ci vado in casa. Spendo quei 70-100 euro in base alla bellezza. Ecco, a trans però non ci vado. Ma qual è la tua preferenza, per esempio? Cioè, in base a che cosa scegli? Cioè... Scelgo in base alla bellezza del viso io. Sì. Non mi interessa del culo, delle tette, della figa, e poi deve essere rasata. Hai capito? Come, scusa? Deve essere rasata questa cosa, mamma mia, come la voce registrata che avete messo apposta a commentare. Io dico nessun dico che è una conversazione vergognosta, dico, come ho sempre detto. Sta dicendo le sue preferenze, cosa che fanno frega di sta porcheria di questo qui, milioni di italiani ogni giorno compulsano, esatto, l'internet, scelgono una donna, dovrebbero riaprire le case chiuse, perché chi è brutto e grasso, poveraccio, che non riesce a trovarsi una donna, deve avere anche lui avere il diritto di andare a scopare. La funzione sociale, ma allora, tu in che condizione sei? Guarda, io mi considero un bel ragazzo, ho 39 anni, sono un bel fisico, sono dotato sia di cervello che di cazzo, sono pulito, educato e non mi manca niente. Però preferisci in questo periodo pagare tranquillamente invece in questo periodo preferisco pagare, preferisco tirare fuori la pecunia e divertirmi quei 10-15 minuti senza dover portare delle rose, conquistare, andare a mangiare fuori. In questo momento preferisco fare così. Ma non hai paura al Covid eccetera? Ma che Covid? Ma c'è la mascherina, c'è tutto il Covid. Ma perché fai? Vai a puttane con la mascherina? Scherzi, ci sono di quelle prostitute che ti misurano anche la febbre quando entri con la pistola. Cioè tu mi stai dicendo che alla Spezia, dove evidentemente vai, immagino, a prostitute, sì, certo, alla Spezia, nella tua città, le prostitute misurano la febbre prima di entrare in casa? Allora, mi è capitato due volte di entrare in casa, di entrare in una casa chiusa e trovare la ragazza con il termometro laser, quello sulla fronte, e misurare la temperatura. Che non serve a un cazzo, sì, naturalmente. Secondo me, anche e la mascherina, secondo me, anche ti hanno fatto mettere la mascherina o no? La mascherina me la sono messa io una volta quando ho trovato una che faceva veramente schifo, però ormai ero lì, mi scocciava andare via. Perché le foto erano finte, false faceva schifo, però per il dispiacere mi sono fermato e ho fatto il mio dovere, ecco. Capito, Parenzo? Faceva schifo, che devi fare? Ma perché un maiale? È una persona veramente spregevole dal mio punto di vista. Con le prostitute ti diventa sempre duro oppure hai bisogno di qualche cosa in particolare? No, assolutamente no, mi viene subito all'istante, vado in erezione all'istante io. non ho nessun tipo di problema. No, ho capito, però uno magari ci metti del tempo, no? Cioè, No, non sono come Parenzo, io l'erezione sono ancora bella. Ma lei che ne sa? Scusi, parli della sua. Visto che lei è tanto bravo, parli immagino. Delle cose che conosce suo. Ma tu uno ti guarda e lo immagina, no? Ma uno che ti guarda e lo immagina. Niente, lei parli delle sue tendenze sessuali, delle sue modalità, lei piace parlarle, ne parli. Sì, faccia l'esibizionista, ma non parli di me però. Però non parli di me. Parli di quelli che conosce. Ecco, bravo. Mi piace anche, io sono anche un amante dell'esibizionismo io. Sì, lei, beh, si vede, questo lo si capisce, se no non avrebbe chiamato, non avrebbe detto queste cose. Ci dica anche il nome della sua ex moglie, così abbiamo completato il quadro. No, se non vuole. Posso, se no mi fa un culo come una campana. E ti credo. Scusa, quanto spendi più o meno al mese, più o meno, quanto investi? Sulla prostituzione? Sì. Sui 400 euro. Poi, figli lei? 400 euro. Sì, ho una bimba di 3 anni, bellissima. Complimenti, allora. Complimenti. Ma che c'entra complimenti? Perché uno che ha una bambina di 3 anni non può andare a puttane. Quando un domani sentirà questa conversazione si vergognerà a morte per quello che lei ha fatto. No, lo so. Complimenti. Pensi ai figli, se non altro. Io penso sempre a quel che faccio, alla mia reputazione, cosa diranno i miei figli. Perché io che pubblico libero con il culo di fuori mi dovrei vergognare. È una vergogna assoluta. Se ti piace così, viva. Io penso sempre le conseguenze che hanno le mie azioni sulle persone a cui voglio bene. Ma pensa un po' ai cazzi tuoi, a goderti la vita. Ma io mi godo la vita se so che le persone a cui voglio bene stanno bene. Ma se penso che un mio gesto possa metterli in imbarazzo, non lo faccio. Mamma mia. Sarò pesante, ma io sono contento che voi siate così. Cioè, non è che critico Cruciani, Se a Cruciani piace così, perché al suo. Io però mi sentirei in grande imbarazzo, far sentire in imbarazzo la mia famiglia. Cioè, se tu non potresti dire, se no, come ho detto io, sono andato a puttare in un bordello. Anche ci fossi andato non lo diresti. No. Anche ci fosse andato non lo diresti. Ma assolutamente no. Ah, non lo diresti. Io invece assolutamente mi dovrei sentire a disagio. Ma se tu non ti senti a disagio è un problema tuo. Ma no, ne vado orgoglioso. Se tu sei felice che tua figlia e tutti sappiano queste tue perversioni. Ma perversioni, se tu sei felice così e viva tu, io non sarei felice e quindi uso un altro metodo che a te non piace, ma che chiedo di rispettare. Però io penso che se fossi tuo figlio mi vergognerei da morire. Va bene, ciao Davide. Marco da Modena, fermi tutti, Marco. Marco Zanasi. Marco Zanasi, siamo al top. Siamo il presidente dell'Europa, che è una donna, la signora Ursula, ha detto che la messa di Natale va abolita. Non ha mai detto una roba simile. Non l'ha detto. Infliggendo un colpo mortale. Non ha mai detto una roba simile. E al cuore di milioni di cristiani. Non sono forse europei? Io gli ricordo alla signora Ursula che l'Europa è fondata a radici giudaico-cristiane. Lei c'entra? Le tradisce. Ma Ursula chi? Che cos'è? Ma chi come sei? Ma chi sei tu? Pagana. Come Bergoglio. Che se fosse un papa, e non è un papa, si vergognerebbe l'8 dicembre di andare come fanno i papi da centinaia di anni. Non c'è assembramento, ci deve andare lui, non noi, a portare in Piazza di Spagna i fiori alla Madonna, che è anche sua perché deve andare? Non indurre in tentazione, certo che Dio lo può fare. Abramo, aspetta, fermo Marco, fermo là Marco, per volere di Dio suo figlio Isacco lo fermò. Lui non deve traccare il Padre nostro, non fermo è una filostocca a suo uso costumo. Marco, aspetta Marco, fermo un attimo, lo devo placare un attimo. Marco. No, sicuri? No, adesso lo rimettiamo in onda perché voglio capire tutto. Marco Zanasi, grande predicatore, fermo là. La Zanzara. Mentre vi aspetto sto ascoltando Focus Economia di Barisoni. Minchia, si parla di economia, di poesia, di musei e voi parlate solo di merda. Fate proprio schifo, cazzo. David, a proposito di sci, io vivo in Svizzera, sono al 100% d'accordo con la decisione del governo svizzero, che non fa parte della Commissione Europea, della Comunità Europea, di Bruxelles, insomma di tutte queste cagate. Il ministro svizzero ha appena annunciato che non cederemo alle pressioni della tua amatissima ed inutile Comunità Europea. Andate a fare in culo. Hop Swiss, hop Swiss. Ciao Cooks, devi essere il nostro portavoce, quello dei congiunti fuori comune per queste feste natalizie che non si possono incontrare con le proprie ragazze, i propri ragazzi, i propri partner. Incredibile. Hanno rotto il cazzo veramente questa banda di infami. Incredibile, ragazzi. Cosa c'è di pericoloso nel passare il Natale in famiglia, anche se i genitori o i nonni vivono in un altro comune? Stiamo scherzando? Questa è la Donato, Francesca Donato, europarlamentare della Lega. Ha ragione però su questo, devo dire la verità, su questo ha ragione. Su questo ha ragione. Ragazzi, o ti fai il tampone, faccio un invito ufficiale. Fai una quarantena, come dal fai 21, gli anziani, dal 21 al 6, se è possibile fottere il DPCM, nel senso fottetelo, non fottetevelo. Bravo, tanto sono gli altri che si prendono la multa. Fregatelo, aggiratelo. Aggiratelo, così succede, inutile che lo dico io. Non è un invito, non è come un invito è ufficiale. Un invito. Io dico invece rimanete a casa, godetevi questo momento a casa per quanto potete. Se è possibile, se avete la fidanzata che cazzo ne so a Bologna e tu sei a Milano, porca la gran puttana, potrò andare se lavoro fino al 23, porca troia, potrò ci sarà andare il a Bologna. Modo per andare, no, con una non motivazione valida. Ci sì, sarà certo, un modo appunto, valido girando, per andare. Stai dicendo, no, che è tutta una farsa. Che è tutta una farsa. Non è una allora farsa per nulla, perché io mi auguro che le persone rispetto, io buffone non vado a Padova dai miei, ad esempio. E va bene, ma è una scelta, è non una scelta, è una tua scelta, è una tua scelta delle regole, ma è va, rispetto culo, per va i miei genitori per non attaccargli il Covid, ma qualora dai, lo avessi su, io muori i miei di paura figli tutta la vita, ma io non muori ho di paura, paura tutta io la vita, forza. Ho paura per i miei affetti, sì, cari, se tu non hai affetti sono cazzi tuoi. Chi c'è poi? Allora la messa si può fare alle 8, ma non si può fare a mezzanotte. Ma anche questa che non allora ho mi dovete spiegare. Trovatemi uno tutti, scienziato tutti medico che mi spieghi adesso perché mi contagio del Covid se vado a messa a mezzanotte, ma non mi contagio non se ci vado alle 8. Ma è come i ristoranti, uguale, perché la messa di mezzanotte è un simbolo e ci andavano tutti. Perché anche questa non capisce però è nulla? Vero, ci andavano perché tutti. Se uno la messa la può fare alle 10, ci sarà la stessa gente che va a mezzanotte. Questo ma oggettivamente, no, è, oggettivamente è una buffonata, no? No, ovviamente. L'orario per evitare che quel momento lo Stato di che regola tutto, lo Stato che regola quello che non è che più fastidio. Regolare. Lo Stato che ti regola pure il buco del culo, ma dove puoi andare o dove non puoi andare. I treni che controllano, si fai questo, fai quest'altro. Civile, non si chiama convivenza, questa è pandemia. E già c'è questo sistema, questo tipo di propaganda colpevolizzante per, nei confronti di chi non accetterà, saltellando e scodinzolando, di mettersi in fila per fare il vaccino. Contro un vaccino i vaccini, che allora uscirà senza essere stato testato. Beh, questo chi l'ha detto, nei tempi necessari. Ma questo per scongiurare anche i rischi di effetti collaterali no, scusami, a lungo termine. Ma lascia perdere l'Europa. Ma come lascia perdere? Questa dice un'altra cosa. Questa dice uscirà un vaccino e non si, ma non è vero. E non si capisce quale, dirà, quale dice lei. Ma non è vero. Senza stai essere testato, il che comunque è impossibile che no, esca un vaccino scusa, senza lei è essere un eurodeputato testato. Dovrebbe sapere, alcuni suoi colleghi lo sanno, che regime lei, ma che l'ente europeo. Stai zitto, non frega un cazzo a nessuno, ste puttanate. Dai, dai, ma allora bisogna dare un'informazione vera però. Dai, lei dice dai, una balla. Giù. Questo è un regime totalitario. Qui c'è la negazione fondamentale dei nostri diritti costituzionali. E mi meraviglio che non lo dicano ad alta voce altri, tranne il solito amico Vittorio Sgarbi, che saluto, che tutti considerano un pazzo. E sicuramente a volte è una persona sopra le righe, ma su certe cose ha fondamentalmente ragione. Allora, su gay.it. Ma allora su... scusa, ha ragione l'Inghilterra a farli prima sti vaccini, non ho capito. Allora, cioè, aspetta, tu da che parte stai? Ha ragione l'Inghilterra a farli senti, primi mio, o senti, ha detto una stronzata senti, questa per qua? Per me. Ma voi siete in contraddizione no, su tutto, ci sarà una un punto fermo. Questa ha detto una stronzata. Lei dice che i vaccini questa non sono certificati. E l'Inghilterra che li fa prima infatti, di noi? Infatti ho detto, io ho detto all'Europa si è preso qualche tempo in più per verificare. Okay. E lei che è eurodeputata non lo sa. Bene. Allora, su gay.it, che mi sembra più interessante. Allora, incredibile, insostenibile diretta radio La Zanzara con protagonisti Cruciani, Parenzo e Maria Dinolfi. E c'ha ragione. Giuseppe Cruciani su Elliot Page, uno è uomo o donna, punto, questa mica si è messa il cazzo. Io questo effettivamente l'ho detto. La Zanzara su Radio 24, uno dei programmi radio più ascoltati e discussi in Italia da anni. Alimentano polemiche, valcando il politicamente scorretto, eccetera, eccetera. Spesso viene a Dinolfi. Oggi ho letto che un'attrice, tale Elliot Ellen Page, ha fatto questo annuncio, che poi non si capisce perché uno debba fare questi annunci. Sei anni fa questa qua aveva annunciato di essere gay, oggi dice di essere trans non binario, cioè né uomo né donna. Vuole che nei suoi confronti siano usati i pronomi lui-loro. se questa le dici gay, questa si incazza. Se questa non dici lei loro, questa si ti denuncia per omofobia, per la legge zero. Questo effettivamente l'ho detto, ma qual è il punto? Cioè, io non è che ho detto uno può dichiararsi come vuole, cioè si può dichiarare trans, non tra, a me non me ne frega nulla. Però non è che ci può essere la pretesa da parte che gli altri la chiamino come vuole lei. Io la chiamo come la chiamo, se la voglio chiamare lei, se la voglio chiamare lui, la chiamo lui, chi se ne frega. Beh, non è che... questo è questione proprio di rispetto di quello che loro vogliono, di come vogliono essere chiamati, anzi, è una storica battaglia delle o dei transessuali di farsi chiamare nel modo che è quello che contraddistingue la loro identità. Questo è giusto che sia così, va riconosciuto, anzi. C'è Marco, vai, c'è sempre Marco, vai. Marco, che dicevi, scusa, di Bergoglio, non ho capito. Marco Zanasi, il presidente dell'Europa, sì, che è una donna, la signora Ursula, non vuole abolire la messa di Natale, infliggendo un colpo a milioni di cittadini europei o non lo sono, e alla loro fede. Le ricordo che così tradisci i valori dell'Europa, di questo continente, che ha radici giudaico-cristiane. È atea come Bergoglio. Ma ripeti, la stessa cosa. Ripeti. Il Papa non si vergogna, ma come non è il Papa? Ma l'hai già detto. Di portare fiori alla Madonna come fanno da centinaia di anni i papi. Lui vuol fare il principe di questo mondo. Bergoglio, non puoi servire Dio Mammona. Tu sei un principe della Chiesa. Scusami, Zanasi. Lucas, non ci indurre in tentazione. Certo che Dio può andare. Zanasi, calmati. Il padre Abramo, che tu conosci, parente. Ma io non. Io lei delira. Ecco, non posso parlare con. Fermato. Il padre Nostro non lo devi toccare. Zanasi. Non è una favoletta che tu modifichi. Zanasi. A tuo piacimento. Zanasi. Ma perché dobbiamo chiamare vergo eretico o vergo lutero? Smetti di fare il modernista. Il deposito della fede, la parola di Dio è eterna. Pazzo. E non cambia mai. Zanasi, ti vuoi fermare o no? Sali su quella scala e vai a portare i fiori a quella che è anche tua madre. Va bene, cosa devo fare? Hai capito? Stare il Padre Nostro e la fede di milioni di cristiani. Chi parla? Scusa Marco Zanasi, fermo un attimo. Ma è un disturbato totale. Voglio capire una cosa, Zanasi. Tu sei sostanzialmente, uno dice che Bergoglio non è il vero Papa, giusto? No, assolutamente. Ok, mamma Bergoglio mia, non è il vero Papa. Seconda cosa, i gay come li consideri? I gay sono persone come tutti noi, che hanno un cuore, un'anima e avranno anche loro un rapporto con Dio. Io non li discrimino. Non li discrimini, però come li consideri? Dei peccatori, naturalmente. Ognuno di noi faccia quello che vuole. Per esempio, la Chiesa Vaticana, con i loro corpi flaccidi, facciano quello che vogliono, ma non diano scandalo, soprattutto ai minori. Se il tuo occhio ti dà scandalo, cavalo. Meglio entri nella vita eterna senza un occhio che nella gene con tutto il corpo. Giusto. Non diano scandalo, con i loro corpi flaccidi facciano quello che vogliono, ma non diano scandalo ai minori. Giusto, ma giustissimo. Scusami un attimo. Dunque, Bergoglio giusto, non è il vero Papa. Non è il vero Papa assolutamente. E tu la si messa. Si comporta da principe del mondo, vuole fare il modernista, secondo la fede, il depositum fide, sì, è la parola di Dio, ma che non cambia da 2000 anni, sì, non ma... va con le mode, non è secolarizzato come sta facendo. Scusami, lui, Zanasi. Ma quale riformismo? Il riformismo lo faceva Lutero, lo sappiamo di cosa è stato capace. Scusami. Lui è ma il successore di Pietro, è l'esempio, ma è sconcertante quello Zanasi, che ma lei è sconcertante quello che dice. La messa, che succede con la messa, che governo le 22? La messa si può fare anche 2 o 3 ore prima, l'importante appunto è andare. A questo proposito voglio dire una cosa. Dimmi. È stato celebrato un rito laico a Napoli, benissimo. Io esorto i napoletani ad avere lo stesso coraggio col quale, non lo giudico, hanno celebrato un loro campione dello sport, a recarsi nella messa di mezzanotte che il presidente dell'Europa vuole abolire. I napoletani vadano a messa a mezzanotte. Ah, dunque è giusto andare tutti quanti a messa a mezzanotte? Ma certo! In massa naturalmente. Ma con le distanziati, con quello che vuoi. Perché e Bergoglio, e Bergoglio che dice? Bergoglio, lui si rifiuta perfino di portare i fiori l'8 dicembre all'Immacolata. Ma chi se ne frega delle fiori? Bergoglio ha vuotato le chiese, le vogliono anche vendere. C'è una chiesa a Torino che è in vendita per 19.000 euro. Questo è il crollo. Ciao. Sometimes you see love, most times you walk. Lorenzo da Roma, vai Lorenzo da Roma, che serata ragazzi, che serata, vai. Io dopo questa serataccia mi vergogno di fare un intervento molto, molto pacato. Mi rivolgo soprattutto, sì, no, beh, vabbè, non ce l'ho col Papa, mi rivolgo un attimo al dottor Paressi, io sono un povero chirurgo di pronto soccorso da 30 anni. Evviva. Chirurgia d'urgenza. Io vorrei sapere, faccio una domanda al dottor Paressi, però mi risponde senza la solita senza arrabbiarsi, no, per carità. Può arrabbiare pure. Stringato. Sì. Lei sa perché, dottor Parenzo, il Covid è diverso da tutti gli altri? Io so solo una cosa. Già gli ha detto no, ma già ha risposto. Quindi può parlare a me. Uno per volta, no? Allora, il Covid ha una caratteristica particolare. È un virus che dopo 5 giorni, barra 6, 7, improvvisamente dai numeri e fa diventare le cellule dell'epitelio polmonare estranee all'organismo. Cioè, si trasforma di colpo in una malattia autoimmune. Dunque questo. Quindi, la regola per evitare questo è quello che si usa in tutte le forme di aggressione autoimmune. Per esempio, quando uno mangia i crostacei si gonfia la gola, quando uno tocca qualcosa. Ok, nelle allergie. Dunque, cortisone. Bravo. Perché non si è dato il cortisone dall'inizio? Il cortisone è dato nei primi tempi, cioè se la persona anziana a caso, la persona... Adesso c'è un protocollo. Aspetta, fammi sentire. E adesso mi fai parlare? Grazie. Mamma mia bella. Perché adesso c'è il protocollo? Lo stiamo a dire da marzo che le cose stanno in questi termini. Perché hanno sbagliato la visione della cosa. Loro, il virologo che guarda il microscopio di solito, o la capua che è laureata in veterinaria, non guarda il dito. Ma la capo non ha fatto nessun protocollo. Ma con questo che vuoi dire? Lorenzo, con questo che vuoi dire? Con questo che vuoi dire, Lorenzo, la conclusione qual è? La conclusione è questa, che non si deve contrastare, o meno, è più complicato contrastare il virus, è più facile contrastare i sintomi per tempo. Bisogna impedire ai pacienti di arrivare, non è più facile curarlo, dunque è inutile, è quasi inutile impedire che si diffonda, diciamo. Faccio il calcolo della serva. Sì. Se il signor Bianchi, di 70 anni, 65, comincia a accusare i primi sintomi timidi di Covid o timidi di raffreddore o quello che sia, bisogna dargli il cortisone. Sì. Perché si dà su Wikipedia. Vabbè, questo poi? Bene. Dopodiché questo tipo di trattamento preso per tempo, dando anche dei farmaci antivirali. Cioè tu dici è inutile bloccare l'economia quando si sa che si può curare facilmente. Non è questo. Diciamola brutalmente. La mortalità in questo caso si abbassa drasticamente perché non arrivano nei reparti di radiazione. E dunque conclusione qual è? Non stanno capendo un cazzo, stanno... conclusione che questa, i lockdown che non servono. Tutti quanti i colleghi di terapia intensiva, di chirurgia d'urgenza, di quelli che stanno al fronte dicono quello che dico io. Non capiamo perché non c'è stato questo tipo di situazione gestita dall'inizio. Cioè il medico curante, bisogna dirgli, a marzo scorso. Ho capito. Fate. Mo ancora non lo fa. Grazie Lorenzo. Ciao. La Zanzara. Allora ragazzi, siccome voglio un negazionista puro, cioè ho bisogno ogni tanto di una siringata con un negazionista puro. Ogni giorno voglio un negazionista. Mi piacciono, mi divertono, mi fanno morire dalle risate. Bisognerebbe dire anche che sono tutte cose false. Ma chi se ne frega? Qualcuno pensa che sia tutto vero quello che avviene in questa trasmissione. Invece no, poi succedono quegli incidenti che sappiamo. Valdo Vaccaro, uno di quelli che diceva... chiamiamo la trasmissione fake news e basta. No, vaffanculo. Chiamiamola così, cambiamo il nome. Invece, cioè, le notizie vere quali sono, invece, quelle che dici tu. Fake news, queste sono io. Valdo Vaccaro, fake news. Valdo Vaccaro, uno che diceva che per guarire dal cancro non bisognava fare la chemioterapia. Appunto. Vaccaro, buonasera, sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Come sta, Vaccaro? È tanto tempo che non ci sentiamo. Io sto bene. Era un po' di tempo che volevo chiamarla perché ho bisogno di un suo parere sul Covid. E cosa devo dire sul Covid? Ma soprattutto sui vaccini, questa è la cosa più interessante, che lei che è un noto antivaccinista, i vaccini che ormai stanno dilagando progetti su progetti, cioè l'unico modo per uscire dal Covid sembra essere il vaccino. Lei che dice? tutta la montatura? Sì. Ecco, prima. Primo, cioè il Covid, cioè il Covid-19, il coronavirus è una montatura. Lo stesso virus, l'importanza data al virus e tutto il resto è tutta una montatura. Cioè non è niente di grave. Un gonfiamento, una roba pianificata. Ecco, prima cosa. Ma pianificata cosa, da chi? Scusami Valdo, pianificata da chi? Pianificata, se vuoi, da quello che viene chiamato il Deep State. Ah, il Deep State. Deep State. Sì, il Deep State americano, le grandi famiglie, sì. Tutta, diciamo, tutto il gruppo che fa capo ai democratici, a George Soros e questa gente qui. Rothschild, Bill Gates. I Rothschild, i Rockefeller, i Morgan stessi. Morgan Stanley. Ma chi è Morgan Stanley? Bill Gates. Che interesse hanno questi qua, diciamo, a pianificare questa storia? Hanno interesse a non perdere il controllo sull'umanità, a ridurre il numero, a fare quello che hanno fatto gli spagnoli nell'America Latina. Ecco, ma spiegami una cosa, ma l'hanno proprio pianificata questa cosa? Tu sei convinto che non è niente di grave, poco più di un'influenza, cioè che è tutta una montatura assoluta? Non è niente, il virus è una cosa al limite, se... Sempre che, a parte che non è stato dimostrato, non è stato isolato mai, come al solito. Dunque è il solito progetto folle criminale di questi qua. Esattamente, ecco, e anche se esistesse, sì, ammettendo che esistesse questo virus, sì, ecco, è qualcosa di influente che non merita tutte queste cose. I morti? Il problema è che poi la gente, molta gente, stia male e muoia è un altro discorso, questa è una normalità che colpisce soprattutto le parti più delicate. Scusami, i morti di Covid, quelli che vengono ogni giorno ci dicono i morti. Sono classificati Covid senza essere morti da Covid, sono morti soprattutto da altre patologie pregresse. Per cui è tutta una messa in scena, c'è tutta questa cosa quotidiana, c'è tutta una messa in scena. Esattamente. Dei poteri forti, tutti i media sono al servizio, sono asserviti a questo progetto. Scusami, i vaccini, voglio capire questo, come si inseriscono i vaccini? Questo è fondamentale. I vaccini sono una ulteriore folle soluzione, sì, perché tu non curi una situazione critica con ulteriori veleni. Però i vaccini hanno salvato un sacco di gente nel passato da altre cose. Questa è la versione ufficiale. Invece sono stati una sciagura. Lì, questa è la posizione. Allora lì uno deve un attimo scomodarsi, informarsi bene. Scusami, per te i vaccini, questo qua in particolare, ma anche gli altri, avvelenano la popolazione? Assolutamente. Hanno fatto questo. Ma oggi c'è una gente, la gente è guarita sempre, senza vaccino. Diciamo remissione naturale. Della situazione. Cioè, tu che faresti davanti al coronavirus? Cosa faresti? Niente. Cioè, uno esce normalmente, gira, incontra le persone, prende una piccola influenza. Ma certamente che non faccio. Io vivo normalmente. Cioè, tu quanti anni hai, Valdo? Scusami. Scusa, io ne ho 77. Tu dovresti essere abbastanza. No, dovresti avere paura o no? Paura di cosa? Ma no. La usi la mascherina o no? La usi la mascherina? No, non uso la mascherina. Scusami, sì. Valdo, io voglio capire una cosa. Per te c'è una dittatura sanitaria in corso? C'è una dittatura vera e propria? La dittatura sanitaria in corso esiste per i motivi che ho detto prima. Di saputo che c'è tutto questo... Questa montatura è dietro, c'è. Chi è l'altro? Comunque, Chi è l'altro? L'altro che parla dietro? L'altro che parla dietro è il mio figlio. Chi è l'altro che parla dietro? Ma le grandi famiglie. Sì. Scusami, ci sono le grandi famiglie. Io ci voglio sono... sapere, ma... voglio sapere sì. chi è quello che parla Parenzo, dietro. Parenzo, si chiama Parenzo. No, dietro, io sono Parenzo. Chi parla là dietro? Chi è? Chi è che suggerisce là dietro? O lei ascolta. Ascolta. O se no, lei mi chiede come fanno tutti, perché io sono una persona educata. Sì, ma il nuovo ordine mondiale, scusami Valdo, il nuovo ordine mondiale. Lei mi prenota un'ora e io le do una lezione sul Covid, va bene? Un'ora di lezione. Va sul mio blog, ma il blog? Tutte le istruzioni. Dio. Scusi, ecco. Ma bisogna vaccinarsi o no? Lei che dice? Di fronte a questa all'Italia che si, le autorità che dicono risolveremo tutti con i vaccini, cosa c'è dentro i vaccini di pericoloso? Cosa c'è? Ma sono cose che ormai si sanno, c'è dentro di tutto veleni di ogni tipo. Beh, ecco. E i microchip pure sono un pericolo. Anche, anche quello è il caso. Poi ci sono tanti vaccini, quindi tanti tipi di vaccini. No, ma qualcuno secondo te Valdo vuole mettere i microchip sotto la pelle per controllarci? Questo è interessante. Comunque. Per forza che sì. E chi lo vuole mettere? Chi lo vuole mettere sto microchip? Come si fa a mettere? Mica è facile mettere il microchip. Ma sono cose molto facili che si fanno, sono cose che non devo inventarle io, le hanno già inventate purtroppo. Ho capito. Ad ogni modo, ma caro, qui c'è un pericolo grave allora. Cioè, sì, se tutti lui il pericolo grave. Questo qua è il pericolo grave. Il pericolo grave è questo squinternato che ha intervistato per 20 minuti come fosse uno normale. Questo è il pericolo grave, fatevelo dire. Ma questa è la sua idea. Vaccaro, ma la sua idea. Ma Vaccaro, ma va tutto in vacca in sta trasmissione. Altro che Vaccaro. Scusa, ma Vaccaro ha la sua idea. Vaccaro, scusi un attimo, pronto? La zanzara. Buonasera, eccoci tornati alle lezioncine di genere per Cruciani e quel ciccione di Adinolfi. Allora, l'identità di genere e il sesso biologico sono due cose diverse, quindi sì. Ovviamente una donna che nasce con la figa avrà sempre la figa tra le gambe, a meno che non interviene. Ma il genere non è costituito dal sesso biologico, il genere è una costruzione socioculturale, per cui ognuno si può riconoscere nel genere che vuole. Seconda cosa, il femminicidio non è l'uccisione di una donna, tout court. Il femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna, cioè un omicidio di genere, in cui la motivazione dell'atto è legato al genere specifico della vittima, in questo caso femminile. Grazie per averci ascoltato, buona serata. Tutto corretto, infatti per Beh. Me ognuno si può definire come vuole. Uno si può definire anche trans, tribinario, quadribinario, centobinario, può dirsi tutto quello che ti pare. L'unica cosa che mi sono permesso di contestare, cioè, è semplicemente una, è che non puoi pretendere che gli altri però ti definiscano come vuoi tu. Va bene essere definito trans, va bene che io ti chiamo, che ne so, appunto, se io voglio chiamarlo Vladimiro Guadagno, lo posso chiamare Vladimiro Guadagno? Però lo no. offendi inutilmente. Vabbè, infatti, io lo chiamo Vladimir Luxuria. Io lo chiamo, e arriviamo appunto. Fino a un certo punto. Però non è che se tu vuoi essere definito trans tribinario, io ti devo definire per forza trans tribinario. Ma che ti cambia la vita? Ma no, ma non me ne frega niente, cioè, però non è che se non lo faccio sono omofobo, capito? Cioè, non è che se non lo faccio non ti rispetto. Cioè, no, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando, dai, su, cioè questa qua, quella di ieri, quell'attrice là è una donna che poi ha detto di essere lesbica, poi dice di essere trans e va bene, va benissimo, per me può dichiararsi come vuole, ma non è che uno la deve definire per forza lui e loro, che cosa ha detto lui oppure loro, cioè, ma di che parliamo, cioè io la dico Elliot, come si chiama, come si vuole far chiamare la, cioè la chiamo così, ma non è che se uno dice mi devi chiamare per forza in tre modi diversi, no, ti chiamo come voglio e senza offenderti, dai, su. Cosa vai contro Luca Zaia? Tu sei una scorreggia, tu sei inutile, sei lo zero. Tu in politica e nell'informazione sei lo zero assoluto. Cosa vuoi criticare Zaia? Eh? Tu sei una merda, non puoi criticare Zaia, puoi solo stare muto, paraculo leccatore delle farmaceutiche, perché altrimenti come fai ad andare alla 7 in TV? Se non ti dà la 7 lo spazio, chi vuole che ce lo dia? Merdaccia, sei il più antipatico e odiato della TV, coglione! Fra poco c'è la conferenza stampa di Conte, che seguiremo naturalmente, seguiremo bene, lì puntuali, bene. Seguiremo lì puntuali. Chi c'era? Giacomo, vai. Giacomo da Roma, vai. Sì, buonasera, ciao Giuseppe. Dimmi. Niente, io sono rimasto scandalizzato dalla moralità che c'ha Parenzo sempre su questo fatto della prostituzione, chi va a mignotte, chi usa queste cose. Cioè, sono proprio scandalizzato da quello. Io so che tu ci stai di fronte, vorrei sapere. Sì. No, tra l'altro siamo di fronte a un paradosso qui, no? Il paradosso è questo, molto semplice. E voglio anche ricordarlo in maniera molto chiara. Parenzo, che viene da un'area progressista, sostiene due cose che sono esattamente il contrario, secondo me, di quello che significa essere, diciamo, dei sinistro o cose di questo tipo. Cioè? Primo, andare a prostitute, che è una cosa, diciamo, un atto di libertà, no? Perché è una cosa libertaria, certo, andare certo. È da miserabile. Io voglio tutelare la seconda cosa. Sì, ma lascia perdere. Io ho sempre detto un'altra cosa, che non io ti sono di essere, che non ti chiedono di essere tutelate, perché ognuno fa il cazzo che vuole, no, nessuna prostituta ti chiede tutte, di essere tutelata. Lasciami finire, se uno vuole stare sulla strada, che cazzo vuol dire? Allora, andare a prostitute, sono sfruttate, tu dici, ma che ne sai? Ma lasciala, ma perché questo è così. Allora, aspetta, lui dice due cose. Ho detto sono a favore delle cooperative di prostitute, non è una novità. Due cose dice: andare a prostitute da miserabili, e l'altra cosa che dice è che andare con un trans è una roba da malati. No, dunque due cose che sono contro, assolutamente dobbiamo eliminare. No, questo qua. Chiedo scusa se qualcuno è equivocato. Giacomo, dimmi, no, ma già l'abbiamo chiarito questo. Giacomo, dimmi. Dobbiamo eliminare. Parenzo non sa che ci sono dei genitori che portano i propri figli. Questo è terapeutico, certo, questo è un altro problema, certo. Però, caro Parenzo, se togliamo di mezzo queste persone, a parte che per me la professione più antica e più nobile, perché ma tu porti, non è che sei uno di quelli che genitori che porta il figlio a prostitute, no? No, io sono io malato, io ho una patologia molto seria, caro Peppino, io soffro di frignite acuta proprio, quindi devo per forza... Sei malato di figa, sostanzialmente. Sono malato, come te, perché si vede... Sì, però io non vado a prostitute, amico mio, no, per fortuna ancora non ci vado, però, cioè, nel senso, non condanno chi ci va, ma ci sono un sacco di persone che vanno... Ma quello che fa Parenzo, che condanna chi ci va... No, però io, un momento, distingo, cioè non condanno i bambini, i genitori che magari hanno dei figli con dei problemi e quindi per loro quello è una... Claudio da Roma, dico, regolamentiamo il fenomeno. Buonanotte, Claudio da Roma, dai. Dimmi. No, ecco, mi rifaccio a quel soggetto che va a prostitute, sì, e non può spendere soldi per fiori e compagnia, ma io fatti due rapidi calcoli, sono ragioniere, lui spende più a una mignotte quattro volte al mese che con la fidanzata, ma come se vanno a spendere 400 euro per quattro prestazioni quando potresti andare al ristorante 5 volte? Vabbè, questo poi ognuno fa come gli fa, a casa carezza il bambino, guardarsi con varie malattie e compagnia. Però il problema grosso mio stasera qual è? È quello che mi ha rilasciato mio nipote. Cioè? Ha sentito il DPCM e compagnia. Dice nonno, ma dal 21 dicembre al 7 gennaio Babbo Natale la Befana possono passare da una regione all'altra, perché lui Babbo Natale no, non possono passare. Non Babbo possono. Natale sì. Lo fanno sti poretti a consegnare i doni. Non possono passare. Fanno con Babbo Natale passa, cioè Amazon, i commercianti li possono portare a casa. No, lasciamo sta online che non è più Babbo Natale. No, dico anche i commercianti, molti si sono attrezzati per portare a casa i regali. Vabbè, questa è una stronzata, mi sicuro? Pare. Sicuro? Questa è una stronzata. Sì, questa è una stronzata. Non è che la gente, cioè, non, ciao, non compra i regali, ciao, però, ciao. Dove l'avete visto? Allora Ferdinando dalla provincia di Bari, vai. Ferdinando, dimmi. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi. Allora, prima di parlare di quello di cui vorrei parlare, volevo dire che comunque se c'è una restrizione per la messa di Natale è perché comunque ovviamente se la mettessero a mezzanotte la gente approfitterebbe. Non lo so, non lo so. A me pare una follia che fino alle 10 va bene, a me non me ne frega nulla, non vado a messa, però mi pare una cosa. Ma così chi vorrebbe approfittare uscirebbe ovviamente. Esce a mezzanotte, vai a messa. Ma in realtà non andrebbe a messa, farebbe farci comodi suoi, quindi a 22 sarebbe già più. Ma che devi fare a mezzanotte del 24? Cosa devi fare? Una questione di ordine pubblico, comunque, ma cosa devi fare a mezzanotte del 24? Che ci vorrebbe l'esercito per controllare casa per casa? Ma infatti nessuno manda l'esercito. Ma la gente nella stessa città farà il cazzo che vuole, perché non è che puoi mettere l'esercito strada per strada. Non potrai impedire a 10 persone di vedersi a mezzanotte del 24. Ma infatti non è che li impedirai, però cerchi di dissuaderlo tutto qua. Ma dissuaderlo di chi? Ma se la gente, in giro, se 10 persone, dove va? Se 10 persone si vogliono vedere a mezzanotte dentro una casa, si vedranno a mezzanotte, punto e basta. È purtroppo chiaro. Ma non è purtroppo, è la vita, cazzo, è la vita. Ma tu pensi che tu non hai mai organizzato una cena a vita tua? Io ho passato degli anni a organizzare cene a casa mia con decine di persone, quindi sono il primo che soffre del fatto di non poterlo fare, quindi non è che io sono a favore di tutto questo. Dico però che è evidente che purtroppo un sacrificio per riportare anche i bambini a scuola al più presto andrà fatto. Ciao, che vuoi ancora? Ciao. Che vuole questo qua? Ah, comunque volevo dire che ero accolto piacevolmente la notizia per cui non ti vaccinerai, così se dovessi prendere il Covid la trasmissione verrà chiusa per 2 settimane. Sì, ma ovviamente spero che comunque tu non abbia complicazioni e ti riprenda il prima possibile. Spero che tu vada a fare in culo il prima possibile. Ciao. Altrettanto. Ciao. La Zanzara. Federico da Hanoi, Vietnam, questa sera con la mia fidanzata buddista andiamo a farci una fiorentina. Salutatemi la Martana. La Zanzara. Cruciani, il vero problema non sono le bestie che chiamano augurandoti la morte. Il vero problema è il domatore e chi le ha addestrate a pensare che tutto è permesso, che si può dire tutto, che la libertà non ha confini. Il vero problema, Cruciani, sei tu. Chi c'è qua? C'è Alessio, nessuno. Alessio tutti da Torino, morti, Alessio morti. Da Torino, vai Alessio. No, Alessio. C'è Conte che deve parlare, aspetta, dai, Alessio, vai. Alessio. Finché non appare Conte che ci dice cosa dobbiamo fare, a Natale 30, e Capodanno 30. Vediamo, no, 20 e 15 l'ha annunciato veramente. Fermi tutti. Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse. È un sistema che sta funzionando, che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Insomma, le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate al livello di rischio effettivo dei territori, senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, riportando l'RT sotto l'1. Attualmente l'RT corrisponde a 0,91. Registriamo anche un calo, soprattutto negli ultimi giorni, del numero degli accessi ai pronti soccorsi, ai ricoveri e alle terapie intensive. Continuando in questo modo, è ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, quindi in prossimità delle festività natalizie, tutte le regioni saranno gialle. È un risultato davvero significativo, se solo consideriamo che anche nelle aree rosse le fabbriche e gli uffici sono aperti, i nostri piccoli vanno nelle scuole primarie, anche in prima media, e quindi vanno regolarmente a scuola. Insomma, stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, che sarebbe stato molto penalizzante per tutto il Paese, sia in termini economici che sociali. Questi risultati ci confortano, ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia. Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Le limitiamo al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Vi riassumo le misure. Iniziamo dagli spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra, anche per raggiungere le seconde case. Attenzione, nei giorni 25 dicembre, Natale, Santo Stefano, 26 dicembre, 1 gennaio, sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle 22 alle 5 del mattino. Per Capodanno però questo divieto sarà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino del 1 gennaio. Ovviamente ci si potrà sempre spostare per esigenze lavorative, per motivi di salute e anche per casi di necessità. E voglio anche chiarire che nei casi di necessità ricorre, faccio un solo esempio, anche l'iniziativa di prestare assistenza a persone non autosufficienti. In ogni caso è sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, sia il domicilio, che è il luogo di lavoro, il luogo delle attività abituali, o dove è la propria abitazione, vale a dire il luogo dove si abita con continuità o periodicità. Ecco, questo permetterà, faccio un esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane, distanti per motivi di lavoro, ma che convivono in una, quantomeno con una certa frequenza, periodicità, nella medesima abitazione. Rientri dall'estero. Gli italiani che andranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. È una misura chiaramente dissuasiva, non sappiamo dove andranno, non sappiamo se dove andranno saranno consentiti veglioni, festeggiamenti e quali misure saranno previste. Ma anche i turisti stranieri che in arrivo, arrivano in Italia nello stesso periodo saranno sottoposti alla misura, alla stessa misura della quarantena. Gli impianti da sci, sciistici resteranno chiusi da subito all'entrata in vigore 4 dicembre sino al 6 gennaio e nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo previsto che dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado e in ogni scuola in questa prima fase sarà garantito il rientro alla didattica in presenza per il 75% degli studenti. Bar e ristoranti. Nell'area gialla, bar, ristoranti, pizzerie resteranno sempre aperti a pranzo, quindi sarà possibile anche pranzare il giorno di Natale, per intenderci, di Santo Stefano. Nelle aree arancioni e rosse, bar e ristoranti e così via resteranno aperti dalle 5 alle 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio sarà sempre possibile. Il problema tanto sentito da tutti gli italiani e non solo, quello dei festeggiamenti, delle pranze, delle cene in casa, dei veglioni. Qui dobbiamo intenderci, in un sistema liberal democratico noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni. È per questo che possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione, ma chiediamo veramente a tutti, cerchiamo tutti di rispettarla. Raccomandiamo fortemente di non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni che sono quelle di maggiore convivialità, di dove i festeggiamenti diventano più intensi. È una cautela essenziale, non solo per noi stessi, ma per proteggere i nostri cari, specie i genitori, i nonni più anziani. Gli alberghi. Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene, quindi i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell'ora sarà consentito solo il servizio in camera. Quanto ai negozi, da venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine di scambiare dei doni natalizi. Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno però aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. Sempre in collegamento con lo shopping cosiddetto natalizio, per sostenere le attività commerciali, questo settore che è in grande sofferenza, e anche per aiutare le famiglie. Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless. Cosa significa? Che dall'8 dicembre prenderà il via l'extra cashback di Natale, che prevede che chi paga con carte anche pressoché gratuite, app, avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre. Tutto, anche comprando pane, pasta, carne, oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista. Ci sarà un rimborso che potrà quindi arrivare sino a 150 euro. E questo, attenzione, non vale per la famiglia, ma per la singola persona, quindi sarà accumulabile anche all'interno della famiglia. Abbiamo voluto peraltro evitare che questa misura di vantaggio fosse valida anche per gli acquisti online, perché è un periodo questo della pandemia in cui tutti, un po' tutti, abbiamo contribuito a incrementare gli acquisti online. Adesso però dobbiamo favorire gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità. Ancora, vi ricordo che per partecipare a questo programma dovete scaricare l'app Io, identificarvi con la vostra carta d'identità elettronica o SPID. Sembra molto complicato, ma vedrete che è molto semplice. E un pensiero voglio rivolgere alle persone con disabilità. Oggi ricorre la loro giornata internazionale dedicata a loro. Nel pomeriggio ho incontrato vari rappresentanti delle principali associazioni. A loro voglio dire e confermare che l'attenzione del Governo verso il mondo delle persone con disabilità è costante. Siamo consapevoli, l'ho detto anche altre volte, delle grandi difficoltà che soprattutto loro, ma non solo loro, stanno sopportando. Ed è anche per questo che nei vari DPCM abbiamo sempre cercato di inserire delle misure che testimoniano la costante attenzione del Governo, ma su questo vorrei dire dell'intera comunità nazionale, verso le loro esigenze. Ecco, occorre impegno, e concludo, impegno e attenzione. Dobbiamo continuare ancora a lungo questa strada. Dobbiamo attendere che il piano dei vaccini possa essere operativo, dobbiamo attendere le cure monoclonali. Arriveranno tutte col nuovo anno, però è chiaro che questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, non meno autentico. La Zanzara. Ciao Giuseppe, allora volevo suggerirti di fare una cosa che io faccio ormai da anni e che ritengo che sia in assoluto la più clamorosa da fare in intimità con la propria donna. Funziona così: la spogli, la metti a pancia in giù sul letto, posizioni il tuo viso in mezzo alle sue chiappe e al grido di vai amore ti fai scorreggiare in faccia. Poi rimani lì quei 4-5 secondi fino a che il gas non ha preso completo sopravvento su di te. Fidati di me, avrei grandissime soddisfazioni. I love my radio. Mamma mia. Allora, Conte ha appena detto che... Beh, mi sembra ottimo, ha spiegato bene le cose. Ottimo, non è ottimo. Per me non è ottimo. Per te è ottimo, per me no. Ma cosa vuoi che ti dica? Cioè, per te è ottimo, per me no. Se devi andare a trovare un parente che sta male, ci puoi andare. Esatto, non un parente che sta da solo, un parente che sta male. Un parente che sta male. No, che sta male, ha detto. Che sta male. No, non l'ha detto. Non l'ha detto. Fidati che è così. Comunque poi quando i giornalisti hanno cominciato a fare le domande, Conte ha detto che la storia che noi abbiamo messo con mille condizionali, come tutti d'altra parte, della presunta cena sua e della sua fidanzata in un ristorante, perché non ha quella macchina smentita, lui ha smentito, ma non ha neanche quella macchina, lui peraltro ha smentito di essere andato in una cena quando non si poteva andare solo, in un c'è ristorante. Un dato in più che non hai voluto dare perché hai dato credito a quell'audio diffuso, io non ho dato credito, ma figurati, ho dato credito, hai dato ma credito a una fake news clamorosa, ma quando io ho dato credito a niente, io ho fatto sentire quella cosa, ho detto, ho messo tutti i condizionali possibili, l'auto citata da quella lì non era quella della scorta di Conte, ma smentito, ma noi abbiamo detto, abbiamo detto, intanto ha infangato, ma quale infangato, ma va a fare notizie, ma vai a fare in culo, diffondendo false notizie, dovresti verificare, Riccardo da Pordenone, ho messo tutti i condizionali possibili, Riccardo da Pordenone, non rompere i coglioni, forse mi risulta che Cruciani vada a trans, mi risulta, intanto lo dico, poi dopo vediamo cosa succede. La notizia era stata ripresa già da, sia da alcune dalla testate, dalla Verità e da Libero. E beh, allora qual è il punto? Verità, Libero e da Cospia, Federico da noi, Riccardo da Pordenone. Vai. Questo ti dà già l'idea. Sì. Ciao Giuseppe, ciao questo Davide, buonasera. Dimmi. Sarò molto Libero veloce. La Verità. Il governo ha scelto la linea del rigore, sì, no? Sì. Ma il rigore dov'era quest'estate? La rigidità, come dice David, era, ci sta. Sempre, sono colpa degli italiani. Il governo che ha autorizzato l'italiano a circolare quest'estate, non è che è stato qualcun altro. È stato il governo che ha aperto le discoteche, insomma. Non è che era qualcuno e poi le ha richiuse. A me sembra ridicolo. Bisogna pensare per estremi. Alessio da Torino, vai. Alessio da Torino, vai. Alessio, dimmi. Pronto, buonasera. Allora, terminata la conferenza stampa di Re Sole, lì, Luigi XIV, sì, volevo chiedere una cosa a Parenzo. Io, a me Parenzo sta molto simpatico, Parenzo. Io ti volevo chiedere soltanto una cosa. Dimmi. Ma tu ti rendi conto che c'è gente chiusa a casa da 2 o 3 mesi, sì, che lavora tutto il giorno, sì, ed è lontana dai propri affetti? E magari vive in un appartamento di una quarantina di metri quadri. Insomma, Parenzo, mi è dispiaciuto che tu hai detto quella cosa prima. Gli spostamenti, che secondo te è giusto che le persone non si possono vedere, non è possibile questa cosa, Parenzo. Certo, che ti devo dire? No, che ti devo dire, cioè, ma che cazzo vuol dire? Non lo so, a volte mi sembra che voi odiate la gente. Chi non lo so, gente, perché? Scusi, perché deve dire una cosa simile? Amico mio, il punto è questo. Il punto è questo. Questi pensano che durante le vacanze di Natale ci siano i grandi assembramenti. Beh, ci sono sempre state le grandi riunioni. È tradizione dentro, nelle, la famiglia. Tanto succederà lo stesso. Succederà lo stesso. Per cui questa cosa qui, che tra l'altro fino dal 21 in poi non si può fare niente, e chi lo può fare fino al 21 è privilegiato. È un'altra discriminazione questa qua, no? Chi deve lavorare fino al 23 certo, o 24 non può fare un cazzo. Dai, cosa. È penalizzato chi lavora fino al 23 come al solito, cioè, dai. Tutti. Voglio dire un'altra cosa, Parenzo, tu prima hai detto io purtroppo non potrò vedere i miei genitori, ma scusami Parenzo, ormai è arrivato a una certa età, è più importante stare con la tua famiglia, con tua moglie, i tuoi figli o con i tuoi genitori? È beh, chiaro, no, in genere io a preferisci... Natale stiamo noi durante le feste siamo tutti insieme, cioè, io in genere sì, durante le feste me ne vado a Padova moglie, una settimana con e poi me ne vado stai a sciare, ma no, ma che non c'entra? Non vuoi stare con i tuoi genitori? Ma voglio far vedere ai nonni, i nipoti, no? Siccome Parenzo si chiede sempre, ma cosa starà facendo? Cosa starà dicendo la signora Barbuto, la signora no, azzurra non me lo Barbuto? Chiedo veramente mai, però la chiamo, veramente. Però la chiamo, però la chiamo, dai, chiamo. Pronto? Azzurra? Chi è? Sono Giuseppe, ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Esatto. Sì, Azzurra, però è vero che vuoi portare in tribunale David? Certo che è vero, ho raccolto tutto, guarda tutto. Aspetta, mando altri dati se vuole però. Non come mi va di parlare. Come sta la gatta intanto e la nutria? Come stanno gatta e nutria insieme? Guarda, della nutria non so, la mia gatta, nonostante gli auguri di morte che sono stati espressi nella vostra trasmissione. Sì, ma non da me è però questo. Di malattia e di morte nei miei confronti, nei confronti brutto della mia no, gatta. No, malattia sua mai. È sopravvissuta. Nessuno, signora, cara, anche gentile io signora, credo che il bene vinca su tutto. L'amore vince sempre sull'odio. Vuoi portare Davide in tribunale? Non ho capito che t'ha fatto. Perché allora, ovviamente. Io ho commentato in un sistema democratico. Lei fa la giornalista, possono no? Giusto? Contestare e confutare le idee altrui. Esatto, tuttavia, esatto. Non occorre cadere nell'insulto, nella denigrazione. Ha detto anche lei. Lei stessa si è definita una strozzetta della prima telefonata. Lei stessa a denigrare e a mettere in ridicolo alla berlina la mia ridicolo persona. Sicuro, in ridicolo si rende ridicola lei, non io. Queste le sue quando c'è un titolo, sì cara, famiglia assente, virgola, figlia allo sbando, lo stupro viene da sé. Io dico che va su, allora no, sa come funziona. Lei è una le giornalista? Redazioni. Lei è una le giornalista, signora? Io sono una giornalista. Ha ragione. Io sono una giornalista. Ti posso fare le lezioni di giornalismo? Ha ragione chi? Ha ragione la Barbuto. La Barbuto mi fa lezioni di giornalismo a me? Assolutamente sì. Ma a me? In una redazione. Zito. Cioè, Zito. Chi scrive il pezzo a me? Chi titola il pezzo? La sì, certo. Ma lei è d'accordo con quel titolo? Ma lei è d'accordo con quel titolo? Ma lei è d'accordo con quel titolo? Risponda alla mia domanda, giornalista. Lei è d'accordo? Non ho altre domande. Fallo parlare, falla parlare. Bene. Sono d'accordo bene. Con quello che ho scritto nel bene. Mio pezzo. E il titolo lo rispecchia anche? E il titolo lo rispecchia? No, il titolo è provocatorio nello stile di Libero. Ah, ecco, io critico anche quello. E io lo critico. No, no. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma attaccare da chi? Lei si fa attaccare da sola, signora Barbuto. Ma non scateno nessuno. Ma guardi cosa mi scrivono i suoi amici di Libero. Ma non le scateno. Guardi, gentile signora. Gentile, gentile signora della vittima, come se fosse una cosa normale. Gentile signora, su questo ha ragione. Gentile signora, ragazzi, si scusi. Su questo, no. Mi scusi, gentile signora. Se io non sono d'accordo con una cosa che ho scritto, chiamo il direttore e gli dico: hai fatto un titolo del cazzo, cosa che lei non ha fatto. Io quindi critico l'articolo e il titolo, ed è un mio diritto. La provocazione, io la critico. Però, è un mio diritto, è un mio stai zitto è un mio diritto, sul mio sito, è un mio, ma quale sito, ma quale finestra, ma quale finestra, con un altro titolo, sì, ecco, io, vabbè, viva, e allora se la prenda con Feltri, se la prenda con Feltri, scusami, se la prenda, ma che ovviamente del giornale di cui io non sono responsabile, allora perché non l'ha fatto togliere, perché non l'ha, ma che di, ma allora lei ha la coda di paglia, ma allora lei ha anche la coda, cara la mia Barbuto, le insegni una regola base del giornalismo. Scusami Davide, stai zitto un attimo, Davide, stai zitto, potresti spiegare come funziona. Allora Davide, cortesemente, posso cortesemente spiegare, Davide, devi stare zitto, però devi stare zitto, devi stare zitto un attimo, la questione è molto semplice. Ha scritto un articolo in cui chiaramente non c'è una parola, una difesa di quella ragazza, è una difesa, a modo suo, in luce peraltro che è stata torturata, seviziata, sequestrata da uno stupratore, ragazza chiaramente sola e abbandonata se stessa anche dalle amiche, da quelle che credo, amiche. Ma se io scrivo su un giornale, scusi signorina Candida Bella, cara signorina Azzurro, signora Azzurra, Barbuto, scusi, le spiego una regola di base, visto che lavoriamo tutti in aziende lei editoriali. Lei deve spiegare le regole, lei che fa bullismo, sì, nessun bullismo, io faccio le polemiche, rispondo alle sue polemiche. Rispondo alle sue polemiche. Vada a vedere 15 anni di carriera e non mi rompa i coglioni. Guardi 15 anni di carriera, signora Barbuto. Barbuto, 15 anni di carriera, vada a vederla, non me la faccio giudicare da una Barbuto qualunque. Cattiveria, purtroppo Parenzo è abituato a cosa, soggetti cara? Che accettano la mortificazione. Esatto. Ma quale mortificazione? Ma di cosa parla? È una polemica giornalistica. Quale bullismo, Barbuto? Infatti, quale non sono mai scaduta nell'insulto, ma lei? Nell'offesa, nella denigrazione. Ma quale denigrazione? Scusate, io posso rimanere del parere, Parenzo, che lei ha scritto delle cose agghiaccianti. Parenzo, tu hai detto. Tu hai detto. Dillo, grazie, agghiacciante, l'ho detto, l'ho sempre detto, agghiacciante. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato. Parenzo, tu hai detto che lei ha insultato la madre. Certo, non è vero, certo. Giuseppe, la madre del bambino morto in mare. Non la madre del bambino morto in mare. Non l'ha insultato. Non mi permetterei mai. mai un'opinione una madre. Nei, nei suoi cosiddetti detto, articoli nei suoi articoli è come se avesse insultato la madre, gliel'ho allora, spiegato perché primo allora, io non faccio bullismo, penso, faccio rispondo a polemiche giornalistiche. Libero è un io giornale che vive di polemiche. Lei vi senta Woodward, senta, mi dia retta un istante, Pulitzer. Mi ascolti un istante, Pulitzer? Mi ascolti? Ma sicuramente allora, non lo è lei, il suo giornale vive di polemiche. Quindi non vuole? Mi rompa i coglioni. Allora, quindi non mi rompa io, i coglioni. Detta con un linguaggio libero, che il suo direttore giornale. Capisce. Te l'hai fatta passare come ha una scritto razzista. Delle cose che a mio... No, razzista, deliranti. No, razzista. Magari il razzismo è una roba ma seria. Il razzismo è una roba deliranti? Seria. Le considerazioni che lei. Le considerazioni che lei ha fatto. Dando la responsabilità alla madre. Dando la responsabilità alla madre. Mandandolo in alto mare. Senta, col brutto signor, tempo avanti ancora certa. Col brutto tempo. Vabbè, scusi se non può vivo, arrivare con l'aereo. Chiediamo scusa se non avrebbe potuto arrivare con l'aereo in business class vero, della Lufthansa. Cara è signora la solita posizione comunque, che oppongono gli immigrazionisti allora, chi, gli immigrazionisti gli i buonisti immigrazionisti miau, miau, miau, miau. Per questi immigrati che stanno in mezzo alla sì, strada faccio qualcosa sì, abbandonati sì. A loro stessi. Ma non che dica... cosa fa? Vabbè. Io faccio lei salva io le faccio. Nutrie come lei salva le nutrie per strada e va benissimo queste persone sì per le strada. Nutrie va a aiutare lei per strada le nutrie va benissimo per me qualsiasi forma di vita deve e poi ho ironizzato su un suo post in cui lei si prendeva cura di una nutria il giorno dopo aver parlato così della madre vabbè, del bambino morto c'è. In mare okay, semplicemente questo se questo invece... è bullismo lei signora mia mi vabbè, porti in tribunale che facciamo ridere i suoi no, amici no, magistrati questa è un'azione di persecuzione nei miei persecuzione confronti. Signora mia signora la parola ridicolizzarmi ma certo ma ridicolizzarla si ridicolizza signora si ridicolizza io da sola soggetti come Parezzo che mi vengono a bullizzare mamma quando io mia. Non do confidenza a nessuno mamma vabbè. Mia nessuno dà confidenza ma che vuol dire no, dare confidenza nessuno. Lei è un personaggio pubblico a perché nessuno. Scrive quando e io la critico per quello che scrive come criticano me è legittimo ancora nella Repubblica lei dei Barbuto o no quello che io scrivo ma appunto. Non la mia persona ma chi critica io ho ironizzato su di lei è ancora vabbè, un diritto farlo perché lei è un personaggio pubblico Azzurra ciao ciao ciao chiarire ciao, è ciao, chiarito ciao. Chiarire in cosa? Ciao, in tribunale, chiarire ciao. Cosa? Tribunale, la nutria come sta? Tribunale, tribunale. È sempre divertente Giuseppe, sentirti battagliare con Giuseppe, la barbuta Giuseppe io vado via sono le 20:49 Giuseppe vado a salvare una nutria Giuseppe diglielo tu Giuseppe vado a salvare una nutria. Comunque il titolo non l'ha fatto lei, paese, non l'ha fatto lei. Ma chi non se ne frega lei. Se scrive su quel giornale, dato... prende il telefono, chiama il direttore e gli dice Feltri, il titolo che hai fatto sul mio pregiatissimo articolo è una stronzata. Invece la signora non l'ha detto e ha difeso anche quel titolo. Quindi vabbè. Che volete da me? Fermi tutti, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.